Italia in controluce. Oggi è il 7 marzo, inizia una nuova settimana di Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. Come sopravvivere felicemente alla crisi diventando un crociato del risparmio, cioè uno che vive all'insegna della vita low cost? Ce lo racconta Maria Luisa Pezzali. In principio furono i viaggi. Al grido di no frills, niente fronzoli, le compagnie low cost iniziarono a rivoluzionare il modo di viaggiare in aereo. Aeroporti secondari, niente snack a bordo, biglietto super economico. Poi arrivarono i supermercati e anche la spesa, gli hard discount, diventò un affare. Intanto IKEA sbarcava in Italia e dimostrava che anche una casa a basso costo poteva fare tendenza. Idem per la moda con i colossi del fast fashion e il boom degli outlet. Oggi il low cost è diventato una moda, interessa tutti i settori, persino le cure mediche. Per alcuni una necessità dettata dalla crisi, per altri un'esca per abbindolare i consumatori. Per Marco Mengoli, attore, cantautore e vignettista, autore del libro Una vita low cost, reality book sul vivere low cost, una filosofia di vita che non ha nulla a che fare con la rinuncia. Più che altro è sinonimo di più attenzione, di una seconda via. Io ho iniziato come esperimento, poi è diventato veramente un piacere, un divertimento, perché comunque mi sono reso conto che veramente a prima vista uno dice low cost uguale rinuncia. Non è vero. E immaginiamoci di essere di fronte a una bellissima strada illuminata in stile natalizio con tutte le vetrine accese e di fianco c'è uno stradello sghiaiato. A prima vista può sembrare una rinuncia, in realtà è un percorso secondario che ti fa vedere quella parte mezza vuota del bicchiere, ma in maniera positiva. Cambi la tua, il tuo punto di vista, la tua visione, cambi proprio veramente mentalità e recuperi esperienze positive del passato o abitudini dei nonni, dei parenti o di altre civiltà, altre culture che acquisti, quindi non recuperi, che diventano veramente piacevoli, molto divertenti, molto piacevoli e poi che ti portano comunque un risparmio in un periodo come questo, è importantissimo. Per Mengoli, che si autodefinisce un crociato del risparmio, il low cost è diventata una missione che tocca anche amore e religione. Chiaramente sono un po' paradossi, nel senso che per esempio nell'amore rivitalizzo il fatto che per esempio si possono fare tante esperienze particolari, non so, il fatto che oggi si esce, si va a cena, si va a mangiare, non so, nel ristorante brasiliano, che in realtà poi di brasiliano ha ben poco, se non il nome, e quindi casomai mi invento invece l'idea di invitare la compagna a casa, di cucinare brasiliano con ricette scaricate da internet, sempre low cost, e poi casomai, non so, creare un'atmosfera con un semplice CD brasiliano, con casomai con una tovaglia un po' diversa, alcune cose, e alla fine mi sono reso conto di questa esperienza che diventa più brasiliano la mia cucina, la mia sala, diventa più brasiliana lei che il ristorante che alla fine ha solo il nome, e risparmi una bella cifra. La religione per esempio è un'altra cosa dove lì viaggio molto sul paradosso, però mi sono reso conto che già internet offre tante cose, il fatto che ti puoi confessare via internet e puoi ricevere anche a casa e via email in risposta quello che tu devi fare come penitenza, oppure per esempio ho considerato il fatto che oggi uno, se volesse, la messa potrebbe vederla quando vuole, perché la puoi vedere in TV ma la puoi vedere anche sul web. Poi chiaramente essendo un manuale semi serio, ci sono delle cose che danno degli input ben precisi e altre che vanno un po' nell'assurdo, ma questo è proprio per renderlo più leggero, ecco. Ah, un avvertimento: dal low cost non si torna indietro. Tutti per esempio si fermano almeno una volta a settimana a prendere il caffè al bar. Io a un certo punto mi sono detto: voglio fare un'analisi dei bar, e per esempio in un bar ad un euro mi davano solo il caffè. In quell'altro a 90 centesimi mi davano il caffè, il cioccolatino, l'acqua gasata, no, il bicchierino piccolino. In quell'altro a 95 mi davano il caffè e il cioccolatino. E quindi ho semplicemente domandato al barista dicendogli: ma scusi, come lei con un euro mi dà molto meno che quello di fianco a 50 metri con 85-90 centesimi? E lì ho notato la bellezza del fatto che comunque questi baristi non sono pronti a queste domande, no? Non c'è più l'abitudine della domanda dell'offerta, no? E sono tutte situazioni che si ripercuotono in ogni settore. È stata un'esperienza di vita. Sicuramente adesso non entro più in un bar a chiedere quanto costa il caffè e fare la valutazione rispetto al bar precedente. Quello no, però ci sono alcune cose veramente che uno può tenere, io sto tenendo. E come ogni lunedì mattina a quest'ora cedo la linea a Piera Ceci per l'estratto da Scuola in Controluce. Scuola in Controluce.